Capitolo 34. Ravenna, 10 settembre 1550. Le scene della miseria sono sempre uguali. Bambini magri, cenciosi, pance gonfie di niente, piedi scalzi, mani piccole e luride a chiedere l'elemosina. I neonati legati con scialli dietro la schiena per non interrompere il lavoro. Le donne riempiono i sacchi di grano, piantate fino al ginocchio dentro la grande cisterna che contiene il raccolto di una stagione. Pochi anziani, ossuti, mutilati, guerci. La strada di fango secco, fuori dalla porta meridionale, le capanne addossate alle mura, come un'escrescenza informe della città, e che via via si diradano verso la campagna. Nessun uomo in vista, probabilmente tutti nei campi, a imballare la paglia per i giacigli di quest'inverno e il fieno per il bestiame dei loro signori. Solo tre tipi, che caricano sacchi su un carro, schiene piegate e sudore. Borgo dei capannetti. Legno e canne maleodoranti tenuti assieme dal fango e dalle zanzare. Spezzo il pane e il formaggio che ho nella sacca e lo distribuisco fra i ragazzini che mi si accalcano intorno. Ce n'è di piccolissimi, che appena camminano, e di più grandi, intenti a scacciare con le fionde i passeri che danno l'assalto alla cisterna del grano. Uno dei più vispi mi regala la sua arma. Saluto tutti con un sorriso e una benedizione, lievi cenni del capo in risposta. I tre uomini mi lanciano occhiate diffidenti, tarchiati, teste grosse. La miseria è deforme. Un fischio rimbalza dalle mura, occhi puntati sulla porta. I tre si affrettano a coprire il carro con un grande telo di sacco. L'agitazione divampa, gli uomini imprecano inferociti. Qualcosa sta per accadere. Un drappello di cavalieri supera l'arcata, ne conta una dozzina, corazze e lance in mostra, uno stendardo con le insegne vescovili. Si fanno largo, tra le proteste delle donne, si fermano, non riescono a proseguire, grida concitate. Una delle donne che stavano riempendo i sacchi, la più furente, fronteggia il capo del drappello. Urlano entrambi in un latino sgrammaticato, misto al gergo di queste parti, quasi incomprensibile. Riscuotere la decima del grano. A metà del mese. Sempre più presto. Non ce la facciamo più. Niente discussioni. Sua signoria ha ordinato. I tre uomini sono rimasti accanto al carro. Sguardi furtivi. Uno sale. Gli altri due assicurano il telo di canapa con cinghie ben strette. L'esattore li scorge. Indica in quella direzione, intimando qualcosa. La donna afferra il morso del cavallo e lo strattona. Il porco le sferza la faccia con una scudisciata. Balzo in piedi su una panca malferma. «Figlio di una cagna impestata!» Il porco si volta. Ho già preso la mira. Il sasso lo centra in piena faccia. Si accascia sul cavallo con le mani sul volto, mentre tutto intorno si scatena un trambusto infernale. I ragazzini lanciano all'unisono come una linea di arcieri. Le donne si accalcano sotto i cavalli, tagliando i garretti con piccole lame. Il carro parte a rotta di collo. Lo stronzo che sanguina urla «Prendetelo! Prendetelo!» I cavalli si impennano, cadono a terra, una gragnuola di pietra investe gli sbirri. Spuntano dei bastoni, arnesi da lavoro. Dai campi accorrono gli uomini richiamati dalle grida. I due che caricavano il carro mi fanno cenno di seguirli. Si infilano in un pertugio in mezzo alle capanne. Attraversiamo passaggi sempre più stretti, io dietro. Ci lanciamo dentro una baracca di assi tagliate. Usciamo dall'altra parte, sull'orlo di un rigagnolo d'acqua, poco più che un fosso. Un barchino piatto e sottile, dentro, spingono come forsennati tra imprecazioni che non posso comprendere. Davanti ci attende il fitto della pineta.